è questione, non è come dire trovi di quotidiano transistori, di cambi transistori, di cambi d'ingresso e anche l'uscita, naturalmente di fare quello e pompa molto ma molto di più, infatti c'è la fascia l'alimentatore, hai capito? Io l'unica fortuna che ho è che ho quelle lineare a transistor che posso modificare come voglio, quindi metto due boccole e per dire trovo un lineare per camion, un 750 e non sai come quante batterie come tuba, faccio un demonio nel vento, faccio separare in pratica, trovo uno e attacco l'altro esterno sempre con lo stesso alimentatore e mi diverto. Ma visitate il break, ma ti ho chiamato a bagnare le olive, rientro tra un po', avanti break. Cappa, ciao Claudio, mi hai sentito ben entrato. Io sto facendo un attimino di due minuti con X che stanno in bagno, rientro subito, fai girare. Bene, bene, a voglia. Bene, 9.25 radio 5, perfetto. Passandone, chiodo arrugginito. E Antonio sono, mi senti? Radio 5, ti sento benissimo, ti sento. Tu mi senti bene di modulazione lì a Muros? Sono rientrato, come mi ascolti Claudio adesso? 9.15 ti registro qua, la data è 5, perfetta, ultima. Ecco, io stavo parlando con Antonella poc'anzi, se c'è un altro condensatore, così almeno. Meglio sempre averne qualche luna in più perché i loghi chi da calzona, non si sa mai. Andrà bene, comunque esci sempre una meraviglia Claudio, per la zona che sì, va troppo bene. Eccomi, che l'arrugginito, come mi senti adesso a Muros? Adesso ho fatto la prova un po' più alto. Aspetta, vado a vedere adesso. Quindi sono più forte io di Antonio. Antonio, potenza, potenza. Vabbè, ma vuol dire che sei anche più favorevole, io no. Io evidentemente sono più sfavorevole, però 9.95 non è male. Capo, io sono in alto, capito? Per quell'aria lì sono più favorevole, giustamente. Pomponio, riprendi. Io mi passo tutti intanto, quindi c'è poco da sbagliare. Così è Claudio. È logico quello. Se fosse stato di Vincenzo, non di qui. Tu immagini che fosse stato dove abitavo prima, l'avrei incollato lo Smith. Cioè, questo è poco ma sicuro. Perché da lì era una cosa allucinante. Ossitisti, Muros, tutto quello da lì. Provare, il moto di rimbara, vedevo quando faceva la leva, lo vedevo in chiaro. Poi ero tutto aperto, ma ero molto più basso di dove sono adesso. Qua sono tappato sulla collinetta, ma se non c'era stata la collinetta, più di uno avesse simulato una. Peccato una bella, forse una patanotta di lì, guarda. Dove abitavo con la zona, anche, mi bastava anche quello di fronte a casa, e c'era una palazzina a 12 piani. lì e oh via, avevi massacrato a tutti, avevi massacrato. Purtroppo lì c'era il problema che facevi di tipo che c'era un CD e facevate i volari, quindi non stavo più installare, andare in baracchino per niente per il condominio, proprio. Sono stato bello un primo piano lì, e come già detto sarebbe stata, a parte gli appartamenti costano parecchio, sono belli, ma se tu metti qua un appartamento costano doppio di quello che vuoi distribuire adesso. Lì c'è una bella porta, la via, la Bosa, la Coso, l'Argentina, il Brasile, parlava tutti i giorni con quello, quando ci vive. Mi passava come volte, prima lì c'era una 32 caricata, piccola, alta, 1,20 m, io avevo la 27L, 5 ottavi con 100 watt, ma lui mi sono trovato come nulla. Io carissimo Claudio, dopo domani sto partendo a Ravenna, vado a operarmi l'ernia, io e Emanuele. K, già un dottore conosciutissimo, l'ha fatto anche il mio collega, quindi tante persone che chiedo lo conoscono. Ti ringrazio a te e da parte anche tuo padre. E caffè, io lo conosco da barattino, sono un vecchio, oramai io di qua lì, non mi piacciono più la vetta, mi fosse venuta con un piacere dagli quinto, nelle mezze 200, ancora quelli posso comprare per dire mi piacciono, ma i 23 canali no, non mi interessano più. Dentro CAE, nei 123, faccio 123, eccetera, eccetera. Avanti, tanto. Ciao, hai visto con pochi watt che arrivo lo stesso a muro? Adesso staccato, torna. Volevo fare una prova per vedere come è arrivato. 9,5 non è male, dico la felicità. La posizione che sono, ottimo. Questa sera va ancora meglio, sono stazionarie basse. Anche arrivo liscio. Tutti arriviamo, muro già favorevole, dai, per tutti. Ma poi troppo validato la casa dell'età un busso. Podiasci in piazza Colonna Mariani. Ah, manco, cioè, sarei andato molto più forte. Antone! Sì, c'è tutto il tempo di cercare una casa, mi ha detto, non è quello il problema, che lo sai anche tu. C'è una uno qua, 50 euro, 20 metri quadri, figurati, dove c'è dei medini, ne voleva 50 euro, ne voleva. Mettiamo terra, il terra, sai cos'è, purtroppo, il condominio, magari dice guarda no, stanno esterne non le possiamo piazzare perché c'è lì, infatti è tutto materiale, già lo sai anche tu, e ti avrebbero rotto le palle. L'unica cosa è avere culo qui, trovare, stare sempre cercando piano piano e finché tu trovi una bella casa, in alto qua su mi, al limite dove c'è l'alberghiero, da lì. Tu fai 13 qua, fai. Qualche villetta che qualche anziano, ho capito, se ne vuole lavare le teghe a metà di palle perché magari il figlio non ci può più trovarlo e a un certo punto vuole venderla, cosa del genere, o affittarla. Solo così per avere il culo alto. Devi trovare il momento opportuno e avere pazienza. Come trovo la casa, 300 euro per dire te lo vai a abitare e se ne abbiglia il culo. Poi ti farai un mutuo e ti paghi il mutuo e lo fa il culo, è casa tua. Bello il baracchino Claudia, l'ho visto. Antonè, non mi ricordo il nome di quel CB che con un antennino usciva sparato a tutte le parti. Quello che abitava a Grattacera, quello che cantava, diceva la voce che sembrava forse, ma non lo era. Adesso mi ricordo se si chiamava Raimondo o come cavolo si chiamava, Alberto, una cosa del genere, mi sembra, che modulava lì a Gattacelo, modulava. Cazzo, ma sparava da quel posto lì. Sparava parecchio, cazzo. Lì è bella, quella data c'era una bella palazzina, anche mettere l'antenna della macchina lì all'ultimo piano è stata una cosa allucinante, per dire. Si chiamava Raimondo, hai detto giusto, lì lo chiamava Mondo, sono andato all'improvviso a trovare la casa sua e aveva a letto una CB, non mi ricordo il nome, la mazza. E quella di Stichi, certo, ho capito che stai dicendo tu. Quella ragazza che lavorava in una radio privata che era un pochettino grassottella. No, no, era magrolina, in gamba pure, abitava le parti dei pompieri, quelle zone lì, andava all'università lì. Boh, quello non me lo ricordo. Io mi ricordo che era una grassottella questa qui, e lavorava in radio a Sassari, faceva la speaker. No, no, no, no. Un po' sottile, magrolina, molto simpatica, capelli molto arruffati, molto in gamba, al 100%. E intorno a poche frequenze. Oh, non me la ricordo più. Io mi ricordo la volta delle, che erano entrate con le due sorelle, e in pratica era venuta a Sassari a studiare lì all'università, e erano le figlie e di quello facevano le pastiglie per andare a cagare, se ti ricordi bene, che poi ci sono passati Angelo Asso e coso e Giampaolo Mandrati con quelle due, se ti ricordi, che andavano a baracchino. Bella questa, facevano le pastiglie per andare a fare la cacca, bumbo. Dai, vediamo se trattiamo Claudio. Claudio, attenzione, chiudo Ruggerito. E falli una massa volante tu. Vedrai che la scossa non trova più. Praticamente un pezzo di filo elettrico, dove c'è la vite, glielo metti lì, hai dato un chiodino nuovo e hai fatto una bella massa. Vedrai che a te non ti dà più la corrente. La spina che c'è di quel baracchino ha tre poli o due poli? E ci manca la massa. Se vuole tre poli, il giallo verde va al centro, caro Claudio. In caso tuo penso che un'impresa avrai anche la massa, avrai un impianto regolare, giusto? Giustamente, se tu li metti una presa a tre, devi anche lavorarci dentro, già dice tuo padre, nella carrozzeria, di mettere un filo a massa e giustamente deve percorrere, diciamo, anche col filo che va fuori con la spina a tre, capito? E diventa praticamente, non ti dà più la corrente perché c'è la dispersione, giustamente terra non ne hai, quindi è una fesseria, di a tuo padre. Già la voluto con bene, raga. Avanti Antonio. Scappa. Ma sicuramente qualcosa c'è che stanno la scossa. O deve mettere qualche massa, qualcosa. E problemi di massa sono. Non so se voi ce l'avete la massa a terra lì. Lì si può magari applicare la spina. Perché non c'è altrimenti. Allora Antonio, ci sono altri modi. Se in tal caso dovesse capitare che dove abita Claudio non c'è una massa, ci mette un filo alla carrozzeria e l'altro un chiodino al muro, ha fatto la massa. Se invece giustamente detto che c'è la massa, un impianto fatto da dovere, automaticamente dentro ci mette un filo alla massa e poi deve uscire fuori e andare alla presa, al polo centrale. È facile, dai, non è così difficile. KKK, comunque siamo tutti in giallo, diciamo l'Italia, speriamo che continua così, dai. Bene, bene, comunque non lo so se domani mi faccio un salto a vedere a trovarti, Claudio, prima di partire. Ok, non ti prometto niente però, domani sono molto esaffarato. Se ce la faccio pomeriggio un salto me lo faccio. Ok. Riprendi Bobo Zius. Non mi ricordo adesso il cognome, comunque è un assattivo. Pensate che il cognome di queste due ragazze, erano due ragazze, ma belle, veramente belle, guarda. Una se l'ha fatta Angelo Vasso, l'altra se l'ha fatta Giampaolo Mandela, che poi sono andati tutti e due a Genova, sono andati. E io l'ho detto, in traghetto, poi sono entrati nuovo a Sasse, sono entrati. E non mi viene in mente, non me l'attivo adesso, se non lo attivo va a far culo. Non mi viene in mente il nome adesso. Ma ti parlo di parecchi anni fa. Non mi riesco a togliermelo, cioè sono il punto della lingua e non vedo arrivare. So che stai parlando lì con i sigaletti bianchi, biondina, sì. Dovevo partirci anch'io a Genova con lui. Mi ha pregato come altro non posso, ma stai scherzando. E c'era la sorella e lì era con lui, capito? Che era disponibile. No, l'hai capito. E poi vabbè, ha fatto fine un po' brutta, perché lui è stato denunciato da un'altra persona ancora, una minorenne, non so se l'hai saputo. Sì, già lo ricordo, è uscito il giornale pure. Lui ha che cosa, quell'altro che era CB che aveva costruito Radio Venere, Sassari Radio aveva fondato, certo, capito. Il padre vedeva autoricambi slanzi, mi rometto. E via, già me lo ricordo, ma è che padre di tanti anni fa. Adesso se lui fa l'elettricista, fa lo sai. La moglie, la seconda moglie che si è sposato, lavora nei tram. E lui lavora come elettricista, lavora. Io non ho più visto lui, ma più veramente. Mi dispiace perché poco fa l'avevo anche picchiato. Boh, non lo so, perché non lo so, ma comunque sia lui lavorava, faceva l'elettricista per una ditta. Me l'ha chiamato lui, un certo lei, cioè dobbiamo fare, lui ha fatto un impianto d'antenna centralizzata, e poi vabbè, qual è il problema, gli ho detto. Ho dato una mano, mi ha pagato e ho dovuto lavorare e poi mi sono andato a casa. Ma ho fatto due impianti, non di più, poi dentro una parte ho recuperato una Grand Prix, c'era uno stilo, la base e 5 radiali, 2 bitoni, metà lumino e metà vetrovese. Per culo trovatemi quindi, tanto sopra questa parata, ho detto cazzo, c'è il capo, c'è la base, avrebbe se molto tutto a giudizio. Antonio. Sì. Bianco, un attimo, sto scendendo giù in bagno, un attimino. Eia. Ma portati una bottiglia sopra, cosa fare io so. Ci porta il pappagallo, Antonio. Il pappagallo? Per pisciare? No, non c'è più bisogno del pappagallo adesso. Adesso sono incisi, cosa hanno fatto? Ha fatto una specie di preservativo, tu lo metti nel pisello, così stai pisciando, e poi c'è la busta, e fino a 5 litri sei a posto. Non c'è neanche più bisogno di mettere, come si chiama, l'aggeggio attaccato dentro al pisello che fa male. Avanti Claudio. Abbassa la staccata spina, fai il lavoro, scorsa non le prende. Se tu metti un cerchio a fase, ci si accende, perché vuol dire c'è dispersione. E quindi automaticamente una massa devi fare là dentro. E poi questa massa percorre il filo che esce fuori, con la fase neutro, e il polo centrale sarebbe la massa che lui ha creato dentro, capito? È una fesseria. No, non lo fare, sennò tu ti fai colpi di sole. Saluto da Gianni. Ciao Gianni, tu sei qui sottofondo. Mi hai sentito? Ho capito già, però cosa ci ha detto? Ti voglio dire a te, siccome è un baracchino che non ha molto, diciamo, watt di assorbimento, quindi puoi mettere anche un cavo multilico di doppio isolamento a 3x1,5, e quindi la calza, cioè il polo, la terra praticamente giallo-verde, quello collega la carrozzeria interna, poi la fase dietro giustamente dove sono già attaccati adesso. Perché intanto anche se è vecchio antico, però non ti può dare la scossa, dai, giustamente devi fare questo accorgimento e usi una spina a tre puri, fase dentro e la terra centrale, capito Gianni? E signor Petro, dai, a tuo figlio trovi i colpi di sole biondi. Saluto io, bene tanto anche a te, metti una massa per l'esterna direttamente, va, e se la bene cura, hai capito? E quindi sei più tranquillo, lasci il capo originale, metti un cavetto che va direttamente alla, a un chiodino, una vita, quello che è, e sei tranquillo. Tanto tu sei a casa tua, non è che devi regalare a qualcun altro, quindi va bene così. Ma gli appari cavallo si fanno tutti così, anche le FT250, fanno la stessa indica, sempre lo stesso difetto qua. Quindi sai come fare, non c'è bisogno che te lo dico io. Buonasera Gianni Capri 2, era un po' che non ti sentivo adesso. Sì, sicuramente, ma funziona questo che dico di prendere il filo di massa e farlo nel muro, non so. Non so, è bruttino questo filo, c'è uno che lo metti dietro giustamente, non dalla scossa. Beh, se no li metti un cavo multilico dopo isolamento, cioè come ho detto io, e fa la cosa giusta. Giustamente quando metto che c'ha una spina con due puri, giustamente, e non va bene, non va bene perché non va bene, non c'è la massa, e quindi automaticamente c'è dispersione, è ovvio che scossa. L'unica soluzione è quella lì, è la cosa più fattibile, più facile che c'è, dai. Poi, giustamente, se non dà fastidio a nessuno, dietro non si vede niente, nella vettina svita un po' di vite, metti il rame, il filo, e l'altra estremità, un chiodino, due, e hai fatto la massa, una signora massa. Anch'io non sono l'altro, non sono amante dei 23 canali io, ma l'unica cosa che al limite mi posso tenere un Egg in quinto, un LMS 200 e basta, multiplo dei 2, multiplo dei 3, e la cassa nota la rondezza, che non servono a niente, solo per quello. E poi al limite l'ultima parte che sono usciti, i primi cabinetti, le FT, poi le FT250 sarebbe stato bello che io trovassi magari in vendita quello è bello qua da me, l'FT7B che ho usato, eccetera eccetera. L'unica cosa è quella, poi da parte quelli di non mi interessano proprio niente, non mi vanno più, non mi piace la vita. Li ho sempre regalati io, i 23 canali, sempre. Anche l'ultimo dei due, l'ultimo dei tre. Sono apparati sì, vecchi, ma in casa non li può tenere, cazzo, è una cosa allucinata, i copi che prendono, no. È uscito di testa. Siamo Gianni Capricorno, è già in pensione. Sì, Gianni Vacca, meccanico, media, vabbè. Va bene, signori, ma io vorrei continuare, no? Sono stanco veramente. Oggi ho trabaccato, domani mi devo andare a fare le ultime cose, perché poi dopo domani mattina parto alle 5, quindi faccio di tutto a farmi una scappata, mi a stargli la mano, Gianni, perché, ripeto, gli amici sono amici. Ok, io vi saluto, un caro saluto, un abbraccio, ciao Gianni, ciao Claudio, ciao Popponio, ciao Antonio. Buon proseguo di QSO, cuore tango da parte mia, ciao a tutti, riprende Gianni. Salutoni Torino, ce la recensiamo alle prossimine. Ciao ciao, avanti Ale, avanti Antonio. Ok, ciao Torino, ci sentiamo, al limite domani, senti, non c'è problema, andrà bene Meda. Sono Finonica, ciao ciao a tutti, ciao ciao, ripeto a tutti, ciao. Ciao ciao. Ti ricordi Capridù, un po' di anni fa era difficile copiare, sentirti, adesso è più facile, adesso c'è l'antenna sul tetto. C'era in pratica nella manta, guarda il piume che l'ho fatto, c'è un pezzo di filo nero, parte da fuori e va alla bobina, e in pratica è il cortocircuito fisico quello, se stacca quello, sì, la terra esce lo stesso, però esce più bassa, capito? Sì. già sto facendo bene, a voi ci mancherebbe. Sei perfetto adesso. Gelato io qua, immaginate tu, qui c'è fuori c'è gelo. Ha soffiato neve a nuvolo, storna, quindi a un certo punto vediamo aprire se tutto va bene. Se apriva tutto va bene, almeno sei tranquillo. Andiamo a scaldarci il culo fuori. Quando mai? Camminare a piedi. Io quando comincia il bel tempo mi piace andarmene al mare, mi piace molto. Aspetta, sono a fare la pupù 2 minuti, arrivo subito. Negativo, negativo, non sento niente. Ti stavo dicendo già che a me quando comincia bel tempo mi piace andare al mare. sempre lavorando, capri due, sì. Sta sempre lavorando. Non si è ancora in età di andare in pensione. Non c'è lavoro, purtroppo, se non è stato un problema. Cambiato lo scolabus, mi ricordo che c'era un Mercedes un periodo, l'avevi cambiato lo scolabus, mi ricordo che c'era un Mercedes. C'era un bel motore, non so se questo ha la stessa riuscita. Modifico la camper, vedrà che c'è bene. Si sarebbe uscito un bel camper lì, lo sai. L'avessi fatto come gli americani, un bel camper. L'avessi messo, l'avessi venduto. E aspetta, ti avessi fatto il suo, ti avessi fatto. Capo, erano buoni veramente quelli. Dai, io vi saluto che mi sto addormentando perché sono stanchissimo. Dai, salutoni a te Capri 2 e salutoni anche a te Antonello, dai. Buonanotte a tutti, Antonio finisce le trasmissioni, ciao ciao. Ciao Anto, ci sentiamo domani. Saluto di bene da parte mia. E a domani, se ti porti il coso, il PMR appresso, ti faccio compagnia quando vai a fare le consegne, Anto, domani, così ci divertiamo. E ok, vedo un po', dai, vedo un po', ok, ciao, ciao, ciao. Ehi, ciao Anto, ciao, avanti capito, ehi, c'è solo qua, non c'è problema. Uiaia, dice bene? Perfetto, funziona, funziona, funziona. un accidente fuori, eh. Io non sento per niente, non sento né uno né l'altro in la verità, quindi boh, non so se loro mi sentano la verità, io non sento niente, nulla. Prova 9256, per un bel forte, sì, a Volga ci mancherebbe, io sono stato con i due luci per i cosi, lo spirito CT è figurati tu, con 4000, adesso c'è l'ecco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova, prova, vabbè, siamo di fronte milionaria, lo sai, da qui a casa tua siamo di fronte. Anche se sono tappato dalla collina qui, ti ascolto la bomba, capito? Fosse stato dove abitavo una volta, ti avrei massacrato, eh. Adesso si ascoltato, sì, buono, buona roba, qualcosa di nuovo, eccetera, eccetera, capito? Il fatto che qua sono tappato. Non c'è nulla da fare. Sei stato lì, al limite dove c'è la brighiera, ehi, da lì, avevo fatto un rete del coso, dalla savana stava diventando, ti bastava una mantova lì, e avevi sentito tutti, compreso anche la prima, la cosica, eccetera, eccetera, perché c'erano di fronte lì. Purtroppo qua sono alto sì per Sassari, perché lo prendo in un lato, però da là una tappata sono tappato, c'è una collinetta, hai capito? E saluto da una parte mia, io non lo sento, non penso che lui senta a me la verità, comunque sia, saluto da parte mia, non c'è nessun problema, io sono qua, a Puglia, adesso va bene, a Puglia ci mancherebbe, sei perfetto. Capito. Dunque ci sono due ragazze che lavorano qua vicino a casa, sono di Calcega, insomma. Una si chiama Tiziana Secchi Cuoci, senz'altro la conosci, e anche la sorella, ci avevo un bar di Amuros, lavorano qua attaccata a casa, tutte e due. Lavoro in quel bar che c'è, dove c'è la cuvetta, quindi ho detto che lo vedi, quando sono con tuo padre lo vedi tutti e due, che lavorano lì, no, c'è solo c'è un tipo, però loro lavorano lì tutti e due, so che loro in pratica di Argentina hanno fatto una specie di BB, hanno fatto, capito? Di proprio non lo so se hanno fatto una biglieria, comunque sia. Sono tutti i giorni qui che lavoravo, quando quasi ci sarà la tua padre mia, adesso va bene, se ma te le vedi tutte e due, le vedi, non ti preoccupare. Ho capito, vabbè, adesso lavoravo di qui, lavoravo tutti e due, Tiziana fa la mattina, presto, l'altro entra verso mezzo giorno dopo la una, quindi loro tutti e due fanno i prati, dai, diciamo, fanno, dopodiché iniziamo la via verso le 2:30 e poi l'altro va via verso le 6 di sera, quindi già si trovano qua, ho capito, quindi a Puglia. Lo sai, tuo padre già è vero, ti preoccupare, se sei lì, come ti vedi, hai trovato, per io ti conosco, quindi siamo a posto, dice, fino a sapreso, ma tu che avevo preso l'apparato che si ha preso un altro paziente come dicevo io. L'ho provato e funzionava benissimo. Poi è arrivato con la sua, ha cominciato a fare un minuto in crisi epilettica e poi io ero attivo, ho venuto a casa, ho detto salvo per casa, ho 5 minuti e poi ti collego, vado il MBP4, così ho fatto e a posto, infatti. Esce bene, esce veramente bene, sono contento di fare la parità che ho preso. La verità è veramente bello. Da 20 latte, veramente top. pensate a me, 25 palati, non va capito. C'è questo, c'è il termine del nome, c'è un coso, c'è un omologato, eccetera, eccetera, più uno, tutto sette. Cioè, a girarvi tutti i quattro è un casino. Ah, e tu ha. E dopo ho detto, questo quarto, vedi, ho detto, da poco, a casa. E poi ho detto, se ti va bene, te lo scegli, solo che tu ti scegli un'altra cosa. E basta, tutto. Beh, si è fatto perché eravamo vicini, era creato, capito? Quindi, ha fatto tutto. Vabbè, adesso vediamo un po' di... Se è stato dato l'appartamento cazzo, a Coso, vicino alla preghiera, io ho fatto 13. Prendo questo, lo prendo uno di là, e ho fatto 13. E sono tranquillo. Lì è alto, ma veramente alto, Non c'è bisogno di mobili in nessun posto, né direttiva, né niente. Installo una bella antenna, una bella mantova e ho fatto 13. Si vede tutto, si vede lì. E non si pega l'ago, non ti preoccupare. Che non vuole piegarsi in acqua. Sì, sì, già ho capito. Beh, non c'è solo... A Oslo. Ormai ce ne sono pochi che arrivano a forte. Ci manca solo Gianni, se è da Gianni per lui la casa sua, sta tranquillo che ti fa schiattare, perché lui è una zona alta, aperta e a posto. Poi c'è anche quello che è, come si dice, che fa impianti, adesso lo sta entrando, fa impianti per ristorante, cosa del genere, sta entrando, c'è la moto, ma di buttata. Non sta rientrando, quella è una zona alta lo stesso, mi. tutta aperta. Sabato è stato bello lì aprire, per vedere cazzo, una bella casa in affitto lì a Usino, per dire l'estate che vai a Usino, non devo uscire a Sassari. Se sono adesso tra quello che te come te le spacchi tutte, questo è poco ma sicuro. Installati la bella antenna come si deve, e quello che sali e non la togli più, il discorso è questo. Prenditi una SuperLM che è molto meglio di quello che ci sono adesso, costa 200 euro e hai finito gli assillati. E così faccio anch'io, mi prendo una bella SuperLM, capito? Non sollevo il pavolo più di come di quant'altro lì perché sono un casino. Devo stare sempre spaventato, devo stare. Se fa fulmini, cosa del genere, se fa vento, cosa del genere, come sono arrivati lì a un certo punto che arrivano le tempeste, quindi è un casino, è veramente un casino adesso. Una volta si stava bene, per dire. Adesso abbiamo maestrale, ribecchio, scirocco, tutti i 20, 80, 100, 80, 100, invece prima no. Però sto dicendo, mettiti una SuperLM, un'antenna, è l'unica che va bene, una bella SuperLM, un bel lineare, tavolo G213, e tu hai finito di rompere le palle con la stazione. Ci metti i tiranti, ne metti 6, forse mettono 3 e sei tranquilla. Boh, basta, se metti di palo un tubo d'acqua, in pratica un tubo che esco un tubo d'acqua, se metti di palo d'acqua e se la tocca in culo. E lo so. Io quando mi sono trasferito dove abitavo prima, adesso ho perso parecchio la verità. Quindi, aiutate tu. L'unico problema è che da qui arrivavo fuori almeno, solo quello la verità. Però dove usino, nuvi, eccetera, eccetera, in Limbara, non sentivo più nessuno da qua. Tutto lì. È una zona brutta questa, capito? L'unica cosa è che se dovessi trovare una casa bella, veramente bella, su dove c'è l'alberghiero, io ho fatto 13, guarda. sono tranquillo, beato, eccetera, eccetera. Ma mi basta una tubo di B1 con antenna, un bel lineare, 604, io agio finito. Non lo aspettavo più subito per niente. Un bel chiuso, quello che è, non so, un apparecchio direttamente con questa fonte, non c'era bisogno di ricevere niente. Basta una sedia di paro e sono tranquillo. Vabbè, a parte l'inverno devi stare molto attento. Il discorso è quello, per effetto di fumi, la paura è quella. E vabbè, come mi si è uguale adesso? Io non posso sollevare l'antenna perché a un certo punto quando la sollevi, io siccome sono in mezzo, ci sono i calici, poi c'è il ripetitore vicino telefonico, e dopodiché dove c'è la SLD, c'è il parafulmine, quindi io sono in mezzo. Ma sono fatto sì, ho detto la moto, ma per sbaglio. Lo stesso un po' da tre metri, un momento da sé, a un certo punto poi lei in piena a me, hai capito? Quindi ho lasciato perdere, se la tocca il culo. Contrario di spaventato di notte, quando fa vento, quando fa pioggia, eccetera, eccetera. No, come prima, no. Io voglio dormire la notte tranquillo e va a far culo a un certo punto. Vabbè, a parte quello, comunque sia, meglio dormire tranquillo questo periodo qua, è un periodo che in pratica c'è un sacco di vento, poi acqua, vento, acqua e cose del genere, va a far culo. Ma ormai ce l'ho sentinati e sono tranquillo, ma prima si mette in palo, no, si mette come anzi 2,5 metri come adesso. Quindi figura che tu puoi per staccarla, cazzo, se metti di palla più l'antenna, cazzo, vai staccato. È un bel casino, capito? Dovresti sempre fare due, prima la sorte la facevi. E dire, adesso invece è un pochettino male. Più vecchi li vieni di età e più è male cazzo, a staccare le antenne, capito? Poi con questo con 19 cosa fai? Non fai niente, ormai tutti i muratori, tutti i cosi, quelli lavorano nei campi di edit, cosa fanno? Sono 3, 4 mesi, 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi, ma secondo te quando cattivo usano molto piccolo, come ti hanno la braccia a certo punto? Non riescono più cattivo a che usano, sono l'altro, non servono più a niente, capito? Quando sei abituato a usare tutti i giorni di mazzetto, scalpello, eccetera, eccetera, ti fai i muscoli. Quando usi il moto piccolo una volta al mese, lì, carità, guarda. È così, così, è un casino, cazzo, sei portato a farmi piacere una terra così, è un casino. Hai capito? Mi stai molto attenti adesso. Siamo forse come dice, più di 20 anni, capito? E poi ormai è quello che è, quindi a un certo punto non è che legge più i pesi, capito? Il discorso è quello, non fa più ginnastica per dire che prende un tappino d'acqua per si fa il coso, oppure fa palestra, no, no, no. Arrivato a quel punto lì, a 60 anni, lo chiedo io, lascia perdere, guarda, che è meglio. Beh, forse è stata di più forte, la verità. Tra quello già ho visto, non ti preoccupare per quello. E io, buona tancata, ci sentiamo le prossime, stammi bene. Sotto Maggiani, mamma, eccetera, eccetera, non c'è problema. E via, ciao, ciao, alle prossime.